vedremo. E anche la figura di questa venerabile che vedremo partirà dai palazzi del re per poi invece andare, ascoltando il cuore e la parola di Dio, ad aiutare tante, tante persone in difficoltà. Bene, iniziamo allora con la vita di questa venerabile. Dunque, la venerabile Madre Antonia Maria de Oviedo nacque a Losanna, in Svizzera, il 16 marzo 1822. La mamma si chiamava Susanna, era svizzera anch'essa, mentre il papà era Don Antonio de Oviedo e apparteneva all'alta borghesia spagnola. Era un commerciante, esportava frutta con varie navi mercantili di sua proprietà, ma in quegli anni la situazione economica era precipitata. Così, poco dopo la nascita di Antonia, quest'uomo decise di partire per l'Inghilterra nel tentativo di risollevare l'economia della famiglia. Purtroppo non solo il viaggio non ebbe successo, ma si ammalò gravemente, a tal punto che Susanna, la moglie, lasciò quindi Losanna, lasciò la figlia e andò a Londra per assisterlo fino al giorno della sua morte. Ma pioveva sul bagnato, perché quando tornò a Losanna, questa donna si rese conto che il negozio che lei gestiva rischiava la chiusura per vari motivi. Insomma, con la morte nel cuore, questa Susanna, ormai vedova e senza aiuti, fu obbligata ad allontanarsi dalla famiglia in cerca di un lavoro, per poterla sostenere. Antonia aveva allora 13 anni ed era l'anno in cui ricevette anche la prima comunione che lei aveva sognato, anzi quel giorno sognava da tempo, avrebbe desiderato tantissimo che fossero stati lì con lei a far festa anche i suoi cari, ma quel giorno si ritrovava purtroppo sola con le zie e con un grande vuoto nel cuore. La madre, Susanna, lo sapeva, perciò gli scrisse: Dio ha voluto così. Mi ha provato in ciò che in me è più sensibile, mi ha dato una croce superiore alle mie forze, ma confido nella sua grazia che supplirà la mia fragilità. Nel frattempo anche Antonia si sposta a Friburgo, una città vicina, in casa di amici di famiglia e qui incontra tante persone amiche che gli vogliono veramente bene. Per la verità era una ragazza che si faceva voler bene, di grande cuore ma anche intelligente e intuitiva. E pensate, proprio il momento precario, particolarmente doloroso che stava vivendo lei e la sua famiglia, la fece riflettere, le fece comprendere che allora era fondamentale, ma come oggi, che la donna avesse una cultura e questa cultura le dava poi la possibilità non solo di emanciparsi, ma anche di sostenersi nella società di allora. Per questo si tuffò totalmente in questa formazione, voleva essere una donna preparata, una donna colta, per aiutare anche, e per diventare anche insegnante. Era profondamente entusiasta di questo cammino e una delle sue maestre la ricordava così. Oltre al francese e al tedesco, conosce l'inglese, l'italiano alla perfezione, e poi la storia, la pittura e ogni tipo di attività artistica. Ma in maniera speciale è degna di ammirazione per il suo ineccepibile comportamento, per la sua profonda pietà, per la bellezza della sua anima, le buone qualità del suo cuore e il fluvio di virtù per cui si fa amare da tutti quelli che la frequentano. Nel frattempo anche la mamma rientrò dopo 2 lunghi anni di assenza, lei aveva 16 anni e completata la prima formazione toccò proprio a lei partire in cerca di lavoro. Nonostante la sua giovane età, la vita esigeva questo distacco. E quindi partì per cercare questo lavoro e prima andò a Ginevra. Fu chiamata dai marchesi della Romana per essere l'istitutrice della figlia Rosalia. Da Ginevra poi andò a Milano e infine a Firenze. Ogni volta più lontano dalla mamma e dalla zia, che amava moltissimo, e la madre le scriveva: Sofia ed io siamo tristi all'idea che ti allontani sempre più. E perché poi, per il denaro, il benedetto denaro che mi priva di ciò che ho di più caro al mondo. Ma non era per denaro, cari amici, la realtà era un'altra, che in famiglia si viveva veramente la miseria e c'era la necessità di sopravvivere, e la precarietà di mezzi economici divenne così forte, pensate, che Susanna fu minacciata con il carcere per non aver saldato un piccolo debito. Intanto Antonia, ultimato il suo lavoro a Firenze, a 18 anni ritornò a Losanna, ma anche qui la situazione era senza via d'uscita. Si vide costretta a bussare a molte porte in cerca di lavoro e fu costretta quasi a mendicare, ma non si arrese. Con qualche aiuto riuscì ad aprire un pensionato a Friburgo, dove poté finalmente lavorare come insegnante, che era la sua vera professione. Era molto preparata e, essendo così stimata, aveva 26 anni, fu scelta come istitutrice degli infanti della famiglia reale di Spagna. Lasciò allora la Svizzera per andare a Madrid. La mamma l'accompagnò fino a Ginevra, ma, pensate, nessuna delle due poteva immaginare che quello sarebbe stato il loro ultimo saluto. Susanna morì infatti di polmonite proprio mentre Antonia era in viaggio. In pochi giorni la nostra venerabile perse la persona che più amava al mondo e che più l'amò, e giunse alla corte di Spagna con la morte nel cuore, orfana e sola. Visse così per 13 anni a corte, ma furono anche anni di grande crescita spirituale, pur nelle difficoltà. Lei stessa lo scrive nella Storia di una coscienza. Sono appunti che rappresentano dei documenti belli, importanti nella storia della santità. In questi appunti lei manifesta il suo desiderio di seguire Gesù con tutta se stessa. Dicevamo che era una ragazza ambita, già a Firenze, un giovane marchese aveva chiesto di sposarla, ma lei aveva declinato, aveva altro allora a cui pensare, quindi a portare qualche soldo in famiglia. Ora invece a corte è lei che si innamora di un giovane, Antonio, nobile di corte, anch'esso profondamente innamorato di Antonia. In cuor suo però lei era molto combattuta. Era combattuta tra il desiderio di donarsi totalmente a Gesù e quello di accettare il matrimonio. Pensate, era talmente dura, cruenta questa lotta, che la portò ad una forte depressione. Lei stessa scrisse in quei momenti: «Tante sofferenze avevano minato gravemente la mia salute. Avevo perso completamente l'appetito ed il sonno, e una terribile tristezza aveva sostituito la mia abituale allegria». Possiamo dire, senza tema di sbagliare, che questi furono i momenti più difficili della sua vita. Possiamo dire la sua notte oscura. Pregò molto, moltissimo. Chiese l'intercessione in modo particolare della Madonna e chiese consiglio a tutti, almeno quelli che stimava, e tutti le incoraggiavano a sposarsi con questo Antonio, che poi oltretutto era il segretario della regina. E lei scrisse: «E così chinai il capo e per la prima volta accarezzai il desiderio che tanto avevo combattuto. Ma ormai era tardi. La divina provvidenza mi offriva un altro calice di amarezza perché lo unissi a quello che aveva consumato il mio Salvatore. Respinto per tanti anni e oramai senza speranza di poter occupare un posto nel mio cuore che egli credeva tutto di Dio, Antonio, costretto a scegliere una sposa, si era deciso per un'altra. È necessario, dice, aver conosciuto l'angoscia che in quell'occasione oppresse la mia anima per avere un'idea di quello che ho sofferto». Arriviamo così, cari amici, nel 1854, ha 32 anni ed è ancora alla corte di Spagna, ma la sua vita ha preso, diciamo, un profondo percorso spirituale e una vita di vera santità, di vero desiderio di donarsi totalmente a Gesù. E conclude proprio, racconta in quel momento quello che lei sta vivendo e ci parla ancora di una ricerca profonda. Scrive: «Sono sola. I parenti che mi rimangono hanno le loro famiglie e quasi tutti vivono in una posizione agiata. Il mio antico desiderio di vita religiosa rinasce nel Carmelo e la manna celestiale del tabernacolo mi produce disgusto per ogni cosa terrena». In effetti era talmente innamorata di Gesù, quindi ormai aveva fatto questa scelta, che ogni cosa che riguardava la terra le provocava disgusto. Ma lei dice, perché non sapeva ancora qual era la sua strada, dice: «Signore, Signore, cosa vuoi che faccia?». Nel frattempo, nel 1860, quindi alcuni anni dopo, si sposò anche la più giovane tra le infante di Spagna, Cristina, e lei scelse proprio quell'occasione per lasciare l'incarico di corte. E proprio qui entra in gioco Padre Serra, che è la figura principale nella vita e nelle scelte definitive della nostra venerabile. Fu lui a raccontarle della missione che avrebbe dovuto compiere nella Chiesa e nella società, e fu lui che la sostenne nei momenti più difficili, come vedremo, accompagnandola nel cammino lungo, oscuro, ma anche entusiasmante di fede di quella che sarà la futura fondazione. Ma andiamo per ordine. Dunque, José María Benito Serra era nato in Spagna nel 1810 ed era un monaco benedettino. Come vedremo, soffrì molto durante la sua vita sacerdotale a causa di incomprensioni, di invidie. Fu calunniato, accusato addirittura di essersi appropriato dell'amministrazione economica dei beni della chiesa di cui era pastore. Questo santo vescovo allora incontrò Antonia per la prima volta proprio alla corte di Spagna e fu un incontro fortuito. La nostra venerabile però rimase impressionata da quel giovane vescovo che cercava di contagiare tutti con la bellezza della missione in un paese lontano, infatti andrà poi in Australia, e non poteva immaginare quale sarebbe stata invece la missione che il Signore stava riservando a entrambi. Padre Serra, infatti, dopo aver lavorato per anni nella vigna del Signore e aver portato i suoi missionari in Australia, si fermò a Roma, era l'agosto del 1862. E proprio la sua permanenza in quella città fu per entrambi fondamentale, perché si rincontrarono proprio lì. E in quell'occasione Antonia ebbe modo di conoscerlo da vicino e scoprì un uomo forte, forte ma anche tenero, che portava nel cuore il messaggio e la testimonianza del Vangelo vero, vissuto. L'impatto fu meraviglioso. Lo stesso anno Antonia era a Roma per scrivere un poema per l'Accademia Poliglotta di Propaganda per il Vaticano e su richiesta di Papa Pio IX le venne commissionato anche un nuovo poema per l'anno dopo. Ma nel frattempo, proprio in questi incontri, Padre Serra aveva acceso nel cuore e nell'anima di Antonia il fuoco della missione. E proprio in questo clima di rispetto e di cordialità iniziarono questo progetto per aiutare la donna, soprattutto le più disagiate, le ultime, anche le più abbandonate, le più sfruttate. Questa sarebbe stata la loro missione. Ma iniziò anni prima, proprio sulle spalle di Padre Serra, e cominciò così. Anni prima, nell'ospedale di San Giovanni di Dio a Madrid, Padre Serra scoprì la luce, possiamo dire, negli occhi malati, anche pieni di vergogna, delle donne dedite alla prostituzione, ma scoprì anche il loro pianto, la loro rabbia, anche l'impotenza, mentre urlando chiedevano di vivere e di essere libere, senza però che nessuno le ascoltasse. Per descrivere il momento, il padre scrive alla regina Isabella e scrive: «Signora, mi cade la penna di mano al ricordo impressionante di quelle giovani che, dopo essersi sinceramente pentite, sono costrette a ritornare ancora sulla strada del vizio». E proprio, cari amici, nella Madrid dell'epoca la prostituzione era aumentata. Per cercare di contenerla erano state promulgate delle leggi severissime. Quelle invece che si ammalavano non venivano arrestate ma portate all'ospedale San Giovanni di Dio, destinato a ricevere i malati affetti da ogni genere di malattia venerea. E Padre Serra vi si recava con frequenza in questo ospedale, aveva 54 anni, da due si trovava a Madrid. Era anche un uomo povero, molto povero. Era un vescovo molto ben voluto, cercato da tutti proprio per la sua carità, per la sua bontà, e lo chiamavano ovunque, ma lui sceglieva il servizio ai più poveri. E all'ospedale San Giovanni di Dio si recava per assistere e confessare le ragazze di strada ammalate o moribonde. Il posto, ci viene detto, era arido, deprimente, era un luogo di morte, eppure lì egli riusciva a scoprire la presenza di Gesù che chiamava alla vita e ancora una volta invitava alla sua mensa queste donne perdute. E diceva così: molte volte, visitando nelle corsie dell'ospedale di San Giovanni di Dio, questo lo scrive Padre Serra, visitando nelle corsie dell'ospedale di San Giovanni di Dio quelle donne infelici, che pagano con una malattia vergognosa i disordini della loro vita, sono stato testimone di manifestazioni di pentimento che non posso non giudicare veritiere. Quale ministro del Dio di bontà, al riconciliare le giovani indurite dal vizio con quel Signore che non venne a cercare i giusti ma i peccatori, sono stato spesso depositario di desideri che ho giudicato sinceri, quindi il vero pentimento. E così, dice Padre Serra, credendomi obbligato ad imitare l'esempio del buon pastore, volli caricare sulle mie spalle la pecora smarrita e fui io stesso molte volte a bussare di porta in porta chiedendo che venisse accolta in quei luoghi destinati ad offrire uno spazio d'accoglienza al pentimento. Quindi bussava alle porte delle autorità per cercare di farle reinserire, ma tutto fu invano, dice, non vi riuscii. E proprio in quel luogo, cari amici, questo padre prese, questo fondatore, prese consapevolezza delle vere condizioni di tante donne, le quali, venute a Madrid per svolgere lavori domestici, si trovavano spesso vittime di abusi e violenze sessuali all'interno delle abitazioni di quelle che erano considerate, tra virgolette, le buone famiglie dell'epoca. Loro, molte di loro, disonorate, abusate, violentate e messe alla porta quando erano ormai sfruttate in tutto. Donne private del lavoro, quindi allontanate e rifiutate anche dalle loro famiglie perché ormai disonorate e prive di ogni alternativa, trovavano proprio il bordello come mezzo di sopravvivenza. Spesso infettate dai clienti erano obbligate a curarsi negli appositi reparti degli ospedali, anche se escluse e in disparte, e molte vivevano la degenza invece con quella grazia, come momenti di riflessione, di ripensamento, di conversione, di ricerca di un riscatto di una vita diversa. E qui entrava, per esempio, in ballo Padre Serra. La cosa triste è che gli unici ad aspettare la loro guarigione erano gli sfruttatori, pronti a reinserirle di nuovo nel degrado di una vita sulla strada. Siamo noi. E proprio guardando questa grande povertà, sentendo anche una profonda ferita nel cuore, questo vescovo, povero anche stanco, prese una decisione che donerà gioia e speranza a molte donne lungo i 150 anni di questa congregazione. Quale fu questa cosa? Aprire una casa di accoglienza dove possano, diceva, trovare ospitalità le donne di vita disordinata che, decise a cambiare vita, non sono state ammesse in nessuna delle altre strutture di analogo istituzione esistenti nella città. E qui un pomeriggio di Pasqua, siamo nel 1864, lui invitò Antonia, che era appena tornata da Roma, a fare una passeggiata per le strade di Madrid, parte delle quali erano povere, malfamate. Lì accettò l'invito e il padre la condusse su una via a lei nuova e sconosciuta. Lui l'aveva percorsa tante volte proprio nel suo andare e venire dall'ospedale e per la prima volta Antonia prese atto e vide le donne che attendevano compagnia agli angoli delle vie della città. Lei scrive: generalmente provenivano dai quartieri malfamati come il Barquillo, un sobborgo costituito da miserabili ammassi di case, orti spaziosi, mulini, macine e fonderie, anche se non poche giungevano dalla provincia e da città lontane. Erano tempi tristi allora, di crisi, di fame, di peste. Per questo erano diventate più numerose le ragazze sulla strada. Ma in un primo momento la nostra venerabile provò disgusto, repulsione, come ella stessa disse. Era una cosa troppo grande, troppo enorme, passare dalla corte di Spagna, ma anche dai salotti, anche dalla vita normale che lei viveva a questa Madrid disordinata, sporca. Ma padre Serra non si fermò lì, le rivelò il suo progetto a partire dall'esperienza dell'ospedale e disse: Antonia, ho bisogno di te. Io non ho ritenuto estraneo al mio ministero né indegno della posizione che occupo nella Chiesa avvicinarmi alla prostituta ed invitarla alla mia tavola. No, non l'ho ritenuto indegno perché significa ripetere lo stesso gesto di Gesù. Ma questa cosa non è che fece cambiare idea ad Antonia, insomma si sentiva inquieta, turbata. E allora, per non dire no, propose a padre Serra delle soluzioni alternative. Per esempio, lei si sarebbe data da fare per cercare dei fondi, insomma, di agire dal di fuori. Ma nonostante questo star lontano, il padre insistette nel chiederle di fare questo salto definitivo. Allora cosa fece? La invitò a pregare e a discernere questa sua richiesta in una chiesa, nella chiesa di Sant'Isidro, davanti alla Madonna del Buon Consiglio. E lei ci andò, perché si fidava di questo vescovo. E accadde in quei momenti qualcosa che fu illuminante, comprese chiaramente in cuor suo che doveva dare il suo sì a quest'opera. E questa fu la sua conversione, scoprire che Gesù si trovava negli ospedali, nelle brutture, nella prostituta, nella strada e nel dolore infinito di quelli che soffrono. E finalmente si sentì davvero felice e scrisse: «Sono contenta e così sicura che Dio mi ha chiamata a quest'opera, così tranquilla nella mia vocazione, che il mio unico desiderio è di esserle fedele. Ed ora in poi vivere la fedeltà sarà per lei riempirsi, cari amici, di quella tenerezza e contagiare con l'amore quelli che non erano mai state amate». Insieme a padre Serra si mette alla ricerca di una casa e la trovano a Cempozuelos, un paesino vicino a Madrid. Il 1° giugno entrarono in quella che sarà la prima di tante case d'accoglienza per le ragazze di strada e queste case si chiameranno Nostra Signora della Consolazione. Allora era una casetta piccola, povera, ma le sue porte erano spalancate e dopo 7 giorni arrivarono le prime 2 donne, una francese e l'altra spagnola. Dicevamo, questo era un piccolo villaggio distante da Madrid di circa 30 chilometri, così le ragazze sarebbero state abbastanza lontane dalla città, dalla strada e dal luogo del loro sfruttamento per poter finalmente rinascere. Lei scrive: «L'opera iniziò e continuò nella più grande povertà, in una casetta presa in affitto che presto divenne troppo piccola. In povertà totale, sottolineiamo noi, ma in quella casa si trovava il calore, la tenerezza, l'amore, e per questo divenne in poco tempo troppo piccola, perché tante erano le donne che adesso andavano da loro. Ne trovarono allora un'altra più grande, era vecchia, ineggibile, economica, era un ex convento mezzo diroccato, ma andava bene. Lo restaurarono e lei disse: le ragazze andavano aumentando, le elemosine affluivano e il Signore benediceva visibilmente quell'opera che tanto umilmente era iniziata». E così, cari amici, tutto sembrava andare per il meglio, ma ovviamente, quando le cose sono di Dio, tutto liscio non può esserlo. Arriviamo al 4 marzo del 1869, quando non si sa come un terribile incendio ridusse in cenere la chiesa e la parte superiore della casa, rendendola inagibile. Antonia dovette quindi ricominciare quasi da zero, perché questa volta, oltretutto, accanto alla povertà e alla distruzione c'era anche la solitudine. Perché? Perché padre Serra era stato chiamato a Roma per il Concilio Vaticano I e per 18 mesi dovette restare a Roma, quindi lei era sola con questo gruppetto di ragazze emarginate. Ma pensate, proprio nella solitudine, nella povertà, nasceva in quel momento, piccola, bellissima e indifesa, una nuova comunità, la comunità delle Oblate del Santissimo Redentore. Scrive padre Serra: «Il 2 febbraio 1870, quando il nostro Divin Redentore si offriva nel Tempio per la salvezza del mondo, senza cerimonia alcuna, ma colma di gioia celestiale, Antonia Maria della Misericordia, perché prenderà questo nome, vestiva con una sola compagna, che in seguito l'abbandonerà pure, il povero e semplice abito religioso color cenere delle oblate del Santissimo Redentore. Pensate, Antonia, che da istitutrice delle figlie della regina, diventa invece compagna e aiuto di tante ragazze sulla strada. Un giorno, proprio mentre si trovava sommersa dagli impegni della congregazione, ricevette, pensate, un invito speciale proprio dalla regina Isabella II, che le scrisse così: «Cara Antonia, da tempo desidero regolarizzare l'istruzione delle mie care figlie in una maniera che mi soddisfi, e per questo ho pensato che nessuna meglio di te possa esaudire il mio desiderio. Spero dunque che vorrai occuparti dell'educazione delle infanti, mie figlie, e confido che farai il sacrificio di abbandonare l'opera a cui ti sei consacrata per soddisfare la mia richiesta». Naturalmente Antonia fu sorpresa da questo invito e pregò moltissimo. Lei sapeva già qual era la risposta da dare, ma pregò tantissimo. E in modo particolare era profondamente innamorata dell'Eucaristia, quindi davanti in ginocchio davanti a Gesù. E dopo, per molto pregato, rispose con una lettera molto cortese dicendo: no, non è possibile. E pensate, la regina non si arrabbiò, ma capì le sue motivazioni e le scrisse così: la tua risposta mi addolora, ma comprendo che nella scelta tra Dio e me non è ammissibile esitazione alcuna. E Antonia riprende fin dal principio quello che è il governo di questa casa, di questa nuova congregazione piccola in questa casa mezza diroccata, e dice che tutto lì sarebbe stato gratuito, ma bisognava anche armarsi di coraggio e di una fede immensa nella provvidenza. E lei scrisse così: quando il Signore ci manda persone nuove, è segno che ci manderà anche il pane. Riceviamole con affetto. Le ragazze sono la grazia di Dio. Erano tutte ragazze, naturalmente, che volevano cambiare vita sinceramente. Quindi arrivavano. Voi pensate che all'inizio qualcuna di queste ragazze divenne anche una sorella, cioè una suora, prese i voti. Nel frattempo, un giorno, uno dei tanti, nella casa non c'era più nulla da mangiare. Succedeva anche questo: non avevano pane e le bocche da sfamare erano tante. Anzi, in quel giorno arrivò anche una ragazza nuova. Cosa fare? Per lei era chiaro. Disse così: in questa casa ci sarà sempre un posto per le ragazze. Quando non ci saranno più letti, prendono pure il mio materasso. Padre Serra, che era tornato da Roma, era invece più pessimista. Disse: il posto c'è, ma non abbiamo pane. Ebbene, fu in quel momento che Antonia si offrì di chiedere l'elemosina. Bene, padre, disse, se non c'è pane, lo chiediamo. Prese un sacco, se lo mise sulle spalle e uscì. Dopo diversi giorni fece ritorno con un sacco pieno e c'era pane per tutte. Pensate, nelle sue costituzioni che aveva scritto con padre Serra, lei scriveva così: per il sostentamento delle vostre case di accoglienza e per tutto quanto occorra affinché si possano salvare molte anime, questo lo diceva già poi alle varie superiore delle altre case, dice: non dovete turbarvi ed inquietarvi, limitatevi a fare tutto ciò che da voi dipende ed abbandonatevi per tutto alla volontà di Dio, con totale fiducia. Non è lui che nutre gli uccelli del campo, quanto più, dice, si occuperà di un'opera che è sua. E proprio il suo gesto di tendere la mano e chiedere per amore un pezzo di pane da condividere con una donna che è stata aggredita, brutalizzata, alla quale tutto è stato negato, è semplicemente meraviglioso, evangelico. E lei scrive: Dio sa bene che non desidero altro che la gioia di tutte le mie figlie, una gioia santa, tutta di Dio, che non cesserete di sentire nonostante le prove, se saprete dire Amen a quanto dispone Gesù, nostro amore, nostro modello, che vuole nascere e morire in tante amarezze. Si prova tanta gioia, e gioia vera, quando si soffre per Lui, in unione col suo sacrificio. E proprio sul suo chiedere la carità diceva: cerco aiuto e protezione per le mie povere ragazze, alle quali vogliono togliere il pane che con tanta fatica e dispiacere era stato loro assegnato in un primo momento. Qui erano le autorità che in un primo momento avevano dato una mano e poi avevano ritirato, diciamo, il loro aiuto. Quindi naturalmente era un momento drammatico per loro, anche per le case stesse. E scrive: ricevo continuamente dinieghi, insulti e solo qualche volta una parola di speranza. E quando sfinita, digiuna, con i piedi gonfi e la testa che mi gira, torno a casa per mangiare qualcosa e soprattutto per raccogliermi finalmente a pregare, dopo aver tralasciato di farlo per tutto il giorno, perché era in giro ad aiutare le persone, l'unica consolazione che mi resta è la certezza di aver sofferto e lavorato in comunione col nostro Divin Gesù per salvare le anime. E a quello si tendeva, la salvezza delle anime. Una conversione era un'anima salvata. E come spiritualità, lei si sentiva per esempio molto legata alla famiglia redentorista fondata da Sant'Alfonso Maria de Liguori. Anche egli aveva scelto, sappiamo, di essere povero. E qui, proprio in quegli anni, siamo nel 1867, il superiore generale dei redentoristi, padre Moron, le scrisse ad Antonia ricordando la loro vecchia amicizia. Infatti era nato in Svizzera come lei, si erano conosciuti a Friburgo, proprio nei momenti difficili, come abbiamo letto all'inizio. E padre Moron le offrì tutto quello che aveva, far parte quindi della famiglia redentorista, divenire oblate del Santissimo Redentore. E Antonia accettò con gratitudine, e da quel momento per lei tutto fu ancora più chiaro. Oblata, redenzione, poveri, mettendo al centro di tutto l'Eucaristia e la Vergine Santissima. E la sua missione era quella di portare la luce ma anche la liberazione agli occhi tristi e stanchi delle tante donne percosse, sfruttate e maltrattate del suo tempo. C'erano sì le ragazze di strada, ma erano anche tante altre donne che non erano sulla strada ma che erano lasciate in balia di se stesse, abbandonate, ammalate, rifiutate. Dobbiamo anche dire che nella Spagna d'allora questo modo che aveva, diciamo, di evangelizzare, di muoversi, di Antonia, della nostra venerabile, di padre Serra, provocava sconcerto, provocazione, non era mai stato fatto prima. Sicuramente era la sfida più rivoluzionaria della Chiesa spagnola del secolo XIX, e lei stessa lo esprime nella stesura delle Costituzioni che dà alle sue figlie. Scrive: l'Istituto delle Oblate del Santissimo Redentore è stato fondato unicamente affinché le sorelle che lo compongono realizzino la propria santificazione, accogliendo, istruendo e promuovendo le donne emarginate, aprendo per esse dei centri gratuiti dove possano essere accolte senza restrizione alcuna. Nessuno mai potrà aggiungere un'altra qualsiasi opera, anche se caritatevole, che distragga in qualche modo le suore da questo fine unico del loro istituto e della loro vocazione. E proprio per tutte queste suore, l'angolo, possiamo dire, sporco, buio, nel quale la donna veniva sfruttata e oltraggiata, diventava per queste suore il luogo privilegiato di incontro con il mistero e nell'invito ad essere di Gesù. Quindi, incontrando le ragazze, cercavano di aiutarle, per quanto era possibile, ad uscire, e molte di queste sono state salvate, allora come oggi. E lei scrisse a questo proposito: tra le pie associazioni che per la misericordia di Dio si sono stabilite nel nostro tempo, occupa sicuramente il primo luogo la Congregazione delle Oblate del Santissimo Redentore. Il fine speciale dell'opera, scrive, è quello di accogliere con tutta carità le donne di qualsiasi età o condizione che sono decise a trasformare la loro vita. Manifiesta tu santità in me, tómame dentro lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí. E fin dal principio fu chiaro ad Antonia che la sua scelta per l'amore non poteva limitarsi soltanto a un'offerta di assistenza. Per aiutare veramente il povero, gli ultimi, era necessario necessario anche aiutare la persona a riprendersi la sua dignità di creatura di Dio. Addirittura pensate, Papa Leone XIII, in una delle visite che Antonia fece, il Papa disse a lei, questa, lodandola, questa è un'opera di redenzione più che di carità, e quante anime si sono salvate. E lei scrive a questo proposito, ricollegandosi al Papa, le oblate del Santissimo Redentore imiteranno l'amore e la delicatezza di Gesù con la Maddalena pentita, con la Samaritana, con l'adultera che i giudei gli avevano presentato per chiedergli se non era giusto lapidarla. E diceva alle sue oblate, figlie, imitate l'amore e la delicatezza di Gesù, fatevi sacramento trasparente di amicizia, perché l'amicizia è il lieto annuncio che libera il povero in profondità. Ma anche per lei non era tutto liscio, quanto dolore e quanto dovette sopportare offese, dicevamo prima insulti, provocazioni e maldicenze. Era la strada, l'abbiamo detto, è la strada di Dio. E lei, quando decise di lasciare, diciamo, la corte, il palazzo, per vivere accanto alle ragazze di strada che erano malate, rifiutate da tutti, anche i suoi amici più cari, non compresero questo suo gesto. Pensate che una delle persone che lei, diciamo, stimava, che aveva conosciuto, oltretutto era stata anche istitutrice delle figlie, era il duca di Rianzarè. E questo duca, il 7 giugno del 1865, le scrisse una lettera che le fece molto male, una lettera sarcastica e anche cinica. Scrisse così, non ve la leggo tutta perché è lunga, ma brevemente, tanto per farvi capire il tenore. Scrive il duca alla nostra venerabile: vedo dalla sua lettera che è occupata a portare a termine un'impresa titanica, da lei iniziata al fine di recuperare alcune maddalene. Gesù Cristo non ne convertì che una, e sappiamo bene come gli è andata. Buon per lei se, per aver iniziato quest'opera, si guadagnerà il cielo. Ma per quanto riguarda i vantaggi dell'opera e la sua sussistenza, i primi, dice il Marchese, non li vedo, e quanto alla seconda, credo proprio che non sopravviverà a lei, quindi si spegnerà quest'opera. E conclude, sempre che la sua fede non si raffreddi molto prima, specialmente se Dio dovesse ancora darle un avvertimento simile a quello che le ha già dato quando permise che si incendiasse l'edificio. Avete capito? Cioè, era come per dire, hai avuto un incendio, quindi questo è un segno che il Signore vuole che tutto sia distrutto, no? Allora, era una lettera provocatoria, sarcastica, anche cinica, dicevamo, ma quello che lei fece più male era perché era stata fatta da un uomo che lei stimava, di fondo, no? Era stato alcuni anni in casa sua proprio per crescere le figlie di questo nobile, di questo duca, e rispondeva così. Ma Antonia non era una che, insomma, una ragazza che si avvia a creare una congregazione di questo tipo, pensate che possa perdersi d'animo, ma neanche per idea. Continuò. Certo, il dolore nel cuore lo sentiva, come può sentirlo ognuno di noi. E lei si dava da fare sempre, cercando anche di inserirle all'interno della società, con grande fatica, perché le porte erano sempre chiuse. E scrive così. Allora, per cercare di aiutare, no, a far dir sì anche a delle persone che potevano dare del lavoro, lei scrive in questo modo. In casa le ragazze si dedicheranno al lavoro, cercando di sfruttare le capacità naturali di ogni donna per insegnarle una professione o un mestiere col quale essa possa vivere con decoro una volta ritornata alla società. Quindi prepararle per un lavoro professionale era importante, ma non bastava. Volle che si dedicasse del tempo ad insegnar loro anche a leggere, a scrivere. Allora era praticamente la maggioranza della popolazione era analfabeta, ma a dare anche nozioni di aritmetica, di geografia, di storia, a tutte quelle ragazze che lo desideravano. E proprio in quegli anni era anche l'epoca che era amici del primo sviluppo industriale, e contemporaneamente sorgevano anche delle fasce di grande miseria intorno alle grandi città, nelle periferie, no? In modo particolare. Questo ci aiuta a capire anche il perché dell'aumento dell'emarginazione in generale, anche dell'abbandono e anche dello sfruttamento di molte ragazze. E lei, appunto, per contrastare, si spendeva totalmente per creare queste oasi, possiamo dire queste oasi di pace, ed esigeva molto soprattutto dalle sue suore, e diceva così, che la superiora, quindi la superiora di ogni casa, non cada mai nella facile tentazione di accettare nella sua casa solo le ragazze utili per il lavoro, poiché quelle che non servono che per peccare hanno un'anima creata ad immagine di Dio come le altre. E non dobbiamo mai dimenticare, dice, che queste sono più nostre che tutte le altre. Non venga mai negata l'accoglienza a nessuna di coloro che sono state rifiutate da altre, qualunque sia la sua età o i suoi difetti. E per raggiungere l'obiettivo affermava, si adotteranno quei mezzi che siano più adeguati per stimolare l'amore al lavoro e per vivere secondo il Vangelo, cercando di evitare troppi richiami, spesso non necessari e sempre sgradevoli. Quindi offrire la pace, togliere ogni violenza, era questo il compito fondamentale in generale. Per questo Antonia chiese alle sue figlie, figlie mie, vivete il Vangelo della pace. Questa è la nostra missione nella costruzione del Regno, annunciare la pace, donarla, lasciarla come un dono dello spirito nel cuore aggredito della donna emarginata che giunge al focolare caldo delle nostre case. Riempire il mondo di ulivi perché possano rifugiarsi sotto i loro rami tutte le donne che vivono all'addiaccio e sono prive di casa e prive di affetto. Però dice soprattutto camminare al loro fianco guardando verso la terra nuova. Pace, pace con Dio, con il prossimo e con voi stesse. Così si assicura la felicità in questo mondo e anche nell'altro. E arriviamo al 1876, la comunità cresce sempre di più e adesso c'era addirittura il noviziato prima di diventare, di prendere i voti. Ed erano appena entrati in quell'anno 16 novizie all'interno della congregazione e aumentando, diciamo anche come numero, aumentava anche la qualità. E la notorietà di questa congregazione divenne sempre più grande, tanto che Antonia venne chiamata dalle autorità della cittadina di Vittoria, vicino. Le autorità volevano che si aprisse anche lì una nuova casa per aiutare tante ragazze o sfruttate oppure abbandonate. Così lei partì per fondarla. E dalla cittadina di Vittoria andò a Benicasim, sempre nel 1876, e poi nella città di Valencia. Qui giunse senza denaro, come sempre, aveva un abbandono incredibile alla provvidenza, però quanta preghiera. Soffrì il freddo, la mancanza di sonno, anche di pane a volte. Aveva ceduto materasso e coperta alle ragazze, perché non ce n'erano altre di materassi. Ci si poteva arrangiare così per qualche giorno, ma era impossibile restare sempre in quelle condizioni. Allora cosa fece? Si fece aiutare e comprò una piccola casa in un villaggio vicino. Era molto più economica, anche più tranquilla, e qui ad Alaquas la sua donazione raggiunse il limite massimo. Cosa successe? Che scoppiò proprio in quei giorni un'epidemia terribile di colera. Possiamo immaginare i morti, gli ammalati, e anche il fuggi-fuggi generale. Al contrario, le oblate, queste suore meravigliose, si offrirono volontariamente di assistere i malati e di seppellire i morti. E queste furono le prime fondazioni e furono anche le prime apostole meravigliose di questa bellissima congregazione. Le altre fondazioni arriveranno poi negli anni a Tortosa, a Saragozza, Santander, Valladolid, insomma tante fondazioni. Ma anche Antonia, la nostra venerabile Antonia Maria della Misericordia, come ormai si chiamava, era stanca. Aveva fatto 14 fondazioni. Era stato un cammino durissimo, ma anche entusiasmante. Per di più, dobbiamo dire che con Padre Sera al suo fianco tutto era stato più facile. Arriviamo così, cari amici, al 1885, e quest'anno fu un anno terribile. Madre Antonia aveva sempre creduto nella forza della croce, ma ora ella stessa confessò di essere giunta al limite di ogni dolore. E il dolore più grande fu dovuto a una enorme calunnia che diffamò la persona che più lei amava, Padre Serra. Quando ne venne a conoscenza, scrisse addirittura al nunzio, gli disse: non posso esprimere a vostra eccellenza il dolore che provo, poiché ci sono cose che non possono essere espresse, cose che si vedono e appena si possono credere. Praticamente, improvvisamente, senza nessuna spiegazione, le avevano tolto Padre Serra, che aveva dato l'avvio alla fondazione. E lei continua protestando in modo molto educato, ma protestando, e dice: ce lo tolgono. E proprio adesso che l'istituto aveva più che mai bisogno di lui. Forse il nemico, vedendo che abbiamo costruito ben 16 case, nelle quali, pensate, più di 600 povere pentite, sfuggite alle sue grinfie, mangiano il pane della carità, e vedendo anche che durante quest'anno ne sono state inaugurate due nuove, e che tutto, grazie a Dio, va bene, avrà chiesto al Signore il permesso di tentarci per provare la nostra fede. Signor Nunzio, nonostante l'eroica rassegnazione con la quale Padre Serra sta soffrendo, sono certa che questo terribile e immeritato colpo lo porterà alla morte. Così egli, dopo aver procurato casa, famiglie, cure materne a tante povere sventurate, morirà lontano e solo, senza che le sue figlie possano ricevere la sua ultima benedizione. Padre Serra praticamente era stato mandato in esilio, perché accusato di chissà quali turpi crimini. Poi si saprà che le cose poi si scoprono, non era così, però in quel momento era un momento di grandissima prova. Io penso che una sofferenza così Madre Antonia non l'abbia vissuto mai nella sua vita, neanche quando ha perso la madre. E Padre Serra in quei momenti ci viene descritto stanco, malato, molto triste nel cuore, con una pena profonda nell'anima, ma pensate, non aprì bocca, non accusò nessuno, preferì soffrire in silenzio, dicendo così: anche il nostro buon Gesù fu esiliato per volontà del Padre suo e non si lamentava né chiedeva quanto sarebbe durato il suo esilio. Io, dice Padre Serra, devo imitare il mio divino modello. Pensate, questa fu la sua unica difesa durante l'esilio. Non si difese neppure, pensate un po'. Ma Antonia, Madre Antonia, aveva ragione, perché la sofferenza fu così forte che morì da lì a poco, era l'8 settembre 1886, ma l'8 settembre è anche il compleanno della Vergine Maria, quindi un giorno baciato dalla grazia. E lo pensiamo in paradiso, anche perché Padre Serra attualmente è servo di Dio. Ma proprio egli, che allora aveva preparato casa, la famiglia, per accogliere tante donne emarginate, muore così, pensate, solo, esiliato, pregando però, perdonando e confidando solo nel Padre. Il dolore di Madre Antonia fu, diciamo, immenso. Tentò in quegli anni anche di aiutarlo, andando a Roma per parlare in sua difesa, ma pensate, tutto fu inutile, tutto era silenzio, disse, segreto e dolore infinito. Passata però la tormenta, ritornarono anche giorni più belli, più luminosi, e Papa Leone XIII concesse il decreto di approvazione della congregazione il 19 maggio del 1895. E proprio in quegli anni Antonia fece la sua ultima fondazione, fu proprio nella città di Barcellona. Lei aveva 72 anni, era molto stanca, anche molto malata veramente, e da Barcellona tornò praticamente cieca, ma le restavano ancora 4 anni, il Signore le donava ancora 4 anni per operare ancora tantissimo per dare questo esempio di amore, di carità, di entusiasmo, di fede, e pregava più che mai, lunghe ore, ci viene detto, passate presso la croce o vicino all'altare, davanti all'Eucaristia. Ma soprattutto era quello che amava molto era il silenzio, l'ascolto, e anche sentiva la gratitudine a Gesù per tutto quello che gli aveva permesso di fare in quegli anni. Era cieca e guardando però dentro di sé vedeva chiaramente, cari amici, le tante ragazze accolte, salvate, abbiamo detto prima erano 600, prima di Barcellona, e poi le fondazioni che erano diventate oasi di pace, di accoglienza, e anche la famiglia redentorista, e poi Padre Serra, unico, inarrivabile, e la limpida amicizia che aveva sempre contraddistinto la loro collaborazione, il loro progettare insieme. E infine, in tanta luce, lei si offrì praticamente in oblazione totale a Gesù, e morì così, era il 28 febbraio del 1898, aveva 76 anni.